Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, bentornati da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Ha fatto parecchio discutere nei giorni scorsi l'ipotesi circolata in ambienti governativi relativa alla possibilità di destinare al Ministero dell'Economia, per la parziale copertura della manovra finanziaria, del TFR non versato dai lavoratori alla previdenza complementare ma lasciato in azienda e dalle aziende dirottato all'INPS che lo gestisce per conto della tesoreria del tesoro. Un'ipotesi che al momento sembra tramontata ma che ci ha comunque suggerito di fare un punto di fine anno sulla previdenza complementare di quei lavoratori italiani che stanno versando il proprio TFR maturando nei fondi pensione o in piani pensionistici individuali in virtù della riforma scattata nel 2006. La crisi dei mercati che stiamo ancora attraversando ha avuto il suo impatto sui rendimenti dei fondi, questione che aveva fatto spaventare chi aveva aderito magari senza completa convinzione alla previdenza integrativa, e adesso invece sembra che si stia avvicinando una fine d'anno con un bilancio più sereno per gli strumenti di previdenza complementare. Oggi ragioniamo su questi temi anche alla luce di una importante novità che scatterà a gennaio, vale a dire la revisione dei coefficienti di trasformazione destinati al calcolo dell'assegno mensile di chi andrà in pensione nei prossimi mesi. E allora con noi stamattina Marco Lo Conte, Plus 24, Il Sole 24 Ore. Marco, ciao, bentornato. Ciao Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E bentornata anche a Nadia Vavassori, responsabile di Seconda Pensione, che è il fondo pensione aperto di CAM SGR, Credit Agricole Asset Management. Bentornata. Buongiorno a tutti, grazie. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione per tutte le vostre domande su questo argomento. Ne arrivavano tante da parte vostra quando era il momento, 3 anni fa, di fare la scelta se lasciare il TFR in azienda o destinarlo, confluirlo, dirottarlo in uno strumento di previdenza complementare. Oggi quali sono le vostre domande su questo argomento? State facendo un punto di fine anno e cosa vi dice questo bilancio? Naturalmente ce lo potete raccontare anche alle 349-238-6666. La borsa è partita di nuovo piuttosto bene questa mattina in Europa, spinta in particolar modo da quello che accade un po' lontano da noi ma che ci ha abbastanza coinvolto nelle ultime settimane, cioè la crisi di Dubai. L'Emirato vicino Abu Dhabi ha concesso a Dubai un finanziamento da 10 miliardi di dollari per ristrutturare il debito interno, come sapete, come abbiamo ampiamente ricordato, e questo ha dato slancio non solo alla borsa locale, più 10%, ma anche a tutto il resto dei mercati, con l'unica eccezione di Tokyo che stamattina ha chiuso sulla parità. Sono positive Parigi più 0,5, Francoforte più 0,8, Londra più 0,8, Milano in rialzo di un punto, sono in realtà leggermente al di sotto dei massimi di seduta toccati a metà mattinata, però insomma la partenza della settimana è piuttosto positiva. Milano acquisti stamattina sul lusso, sul cemento, sul settore tecnologico, sul settore assicurativo, quindi situazione piuttosto eterogenea. Bulgari guida i progressi, adesso più 2,26%, STM più 2,25%, Buzzi più 2,22%, Luxottica e Fondiaria in rialzo di un punto. Per gran parte della mattinata non c'è stato nessun titolo negativo a Piazza Affari, adesso c'è Prismian che perde lo 0,6%. Euro su dollaro a 1,4634, per la verità molto ben intonato anche tutto il settore automobilistico. Il petrolio è sceso sotto i 69 dollari al barile. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina. Oggi ritorniamo a parlare di previdenza complementare. A fine 2008 il verdetto era stato chiaro. Tra TFR e fondi pensione, ad avere la meglio, complice l'andamento negativo dei mercati, era stato proprio il trattamento di fine rapporto. Se da gennaio a dicembre dello scorso anno la sua rivalutazione netta era stata pari al 2,7%, nello stesso periodo i fondi negoziali avevano lasciato sul terreno mediamente il 6,3%, i fondi pensione aperti il 14%, mentre i piani individuali di previdenza di tipo assicurativo, PIP, addirittura il 24,9%. A un anno di distanza però la situazione si è capovolta e la previdenza integrativa si avvia a chiudere il 2009 prendendosi una rivincita. Il trend infatti da qualche mese a questa parte si è invertito, complice da un lato il rimbalzo messo in atto dalle borse e dall'altro la brusca frenata dell'inflazione. Secondo i dati diffusi da Asso Fondi Pensione relativi ai primi 9 mesi di quest'anno, il rendimento medio dei fondi pensione, chiusi, aziendali o di categoria, si è attestato intorno al 7,2%, al di sopra dell'1,5% messo a segno dal TFR. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Sto toccando i cursori con il volume delle cuffie per Marco Lo Conte, fra un po' lo renderò sordo, speriamo di no, tutto a posto. Anzi, sento basso, puoi alzare. Ah, allora alzo ancora un pochino, sì, eccoci qua. Marco, è già possibile capire, noi abbiamo già dato qualche indicazione rispetto a qualche bilancio stilato da qualche istituzione come Asso Fondi Pensione, lo abbiamo citato nella nostra scheda, ma complessivamente appunto quali altri bilanci conclusivi ci aspettiamo sempre dal punto di vista istituzionale, quando per esempio la Covip darà il suo bilancio finale sul rendimento dei fondi pensione, credo all'inizio del prossimo anno? Non sì, prima. Anche un filo più avanti, però ufficialmente la Covip nella sua relazione annuale che presenta intorno a giugno fa il bilancio sull'anno precedente, però già da qualche tempo, nei primi mesi magari dell'anno qualche nuovo. Lavoratore vuole saperlo un po' prima. Sì, ma non è un grosso problema perché i dati non sono nascosti. Ogni fondo pensione sul proprio sito internet ha tutti i dati aggiornati al mese precedente. C'è l'obbligo di comunicare il 10 di un mese il dato del mese precedente alla Covip nel giro di pochi giorni, diciamo a metà mese. Cioè è caricato sul sito internet di tutti i fondi pensione il dato relativo al mese precedente, così è possibile verificare l'andamento dei rendimenti di quest'anno. Mm-hmm. Insomma, da inizio anno, come accennavi poco fa, il rendimento dei fondi pensione, sia aperti che negoziali, che i PIP collegati a unit linked, cioè a fondi comuni, danno dei segnali estremamente incoraggianti, recuperando gran parte di quanto perduto l'anno scorso. A fine settembre la media dei fondi negoziali dava un rialzo del 7,2% contro l'1%, poco più dell'1% del TFR per chi ama questo tipo di confronto. Che si è poco rivalutato anche per effetto del contenimento dell'inflazione di quest'anno. Esatto, che è molto bassa, anzi ci sono ampi periodi in cui nel 2009 l'inflazione è stata negativa, cioè c'è stata deflazione, per cui e da questa fase ancora non siamo usciti ed è probabile che non ne usciremo facilmente nel prossimo futuro. Diciamo che se il 2008 è stato un anno molto difficile, il 2009 si avvia a chiudere un anno di importante ripresa, non totale, non compresa per tutti, ma per esempio qualche giorno fa abbiamo provato a fare un'elaborazione per verificare per i fondi pensione aperti quanti di questi siano riusciti a tornare sopra il livello che avevamo fatto registrare a fine 2007. Ebbene, è emerso che circa il 53-54% dei fondi pensione aperti, delle linee dei fondi pensione aperti, è tornato sopra quella soglia. Quindi ha già colmato la voragine creata nei due anni più difficili, insomma. Esatto, poi bisogna intendersi quando è iniziata la crisi e quando è finita, sì. Queste sono tutte convenzioni, date convenzionali, però comunque questo la dice lunga sul fatto che le linee, quelle azionarie che avevano perso di più, hanno recuperato altrettanto, per cui l'errore maggiore, diciamolo, è stato fatto da chi, spaventato dalla crisi, ha deciso di uscire o di scegliere delle linee garantite, delle linee a basso rischio che le hanno dato anche dei bassissimi rendimenti. In questo check-up di cui ci parlavi, Marco, hai controllato anche gli amici di Seconda Pensione come si sono comportati? Ne abbiamo controllati 411 di linee. Quindi non te lo ricordi? Quindi non mi ricordo. Va bene, Nadia. Comunque c'è tutto sul sito internet del Sole 24 Ore. Infatti, Nadia Vavassori. Io sono qua apposta per dire che siamo andati molto bene, molto meglio della media degli altri. Quindi fondi. Crisi archiviata, insomma, per il fondo pensione, anche se poi sappiamo benissimo che chi aderisce ad uno strumento di previdenza complementare, diciamo che deve guardare all'ottica di lungo periodo e queste fasi, dovrebbe sforzarsi di non guardarle. Cioè, la premessa che volevo fare, sentendo anche appunto Marco e i commenti sui rendimenti, sono correttamente nel momento in cui si danno le notizie, sono quelle di dare dei valori che abbiano una durata e un periodo di osservazione dell'anno, ma che poco calza per la previdenza complementare. Probabilmente, mi auguro di no, ma l'anno prossimo potremmo ridiscutere di valori che si sono esattamente invertiti e andare a questo punto avanti così di anno in anno, per cui l'orizzonte dell'anno ha poco senso. Di fatto anche la normativa attuale non consente un'uscita dai fondi pensione o dalla previdenza complementare repentina, mossa diciamo più da un punto di vista emozionale, come per chi investe in fondi comuni di investimento, che può decidere volontariamente quando uscire e quindi poter fare anche delle scelte magari non corrette come timing. Per la previdenza complementare il legislatore ha fissato degli elementi e degli eventi che caratterizzano l'uscita, per cui uno su tutti il raggiungimento dell'età pensionabile. Ora, quando uno raggiunge l'età pensionabile lo sa anche 2 anni prima, e quindi è corretto che si sposti da linee che hanno un profilo di rischio più elevato su linee che hanno invece un profilo di rischio contenuto e quindi servono, garantiscono il capitale, certo, esatto, o quantomeno che tutto il piano di accumulo per tutta l'attività lavorativa sia in qualche modo messo a riparo da fluttuazioni repentine di mercato. Diverso è per chi ha ancora davanti tanti anni e di fatto non ha delle motivazioni per poter entrare in possesso di questo capitale, o meglio, c'è una piccola fascia, in realtà ne paghiamo le conseguenze dell'andamento del 2008 e del 2009, per esempio di persone che hanno perso il lavoro. La perdita del lavoro chiaramente consente di riscattare la posizione previdenziale accantonata, ma anche qua il legislatore è stato piuttosto oculato: non tutta subito, ma solo il 50%, in modo tale che se uno ne avesse necessità in un momento di mercato non favorevole, non possa mettere a rischio tutto l'accumulato uscendo magari in un momento di mercato che fa meno 20%. Sono, per sommi capi, appunto i principi basilari della riforma del TFR, ma anche di tutta la gestione della previdenza complementare, principi molto noti nel sistema anglosassone che qui da noi hanno avuto un po' più difficoltà ad essere, come dire, percepiti dai lavoratori. Marco, visto che parliamo comunque di bilanci, non solo di rendimenti ma anche di numeri, a che punto è, come dire, il mondo del lavoro rispetto alla previdenza complementare? Negli ultimi mesi, insomma, il numero degli aderenti è aumentato, come stanno andando le cose da questo punto di vista? Il numero complessivo di aderenti è aumentato in maniera quasi inaspettata, ma fino a un certo punto, per esempio nel fondo IMSS, che è il fondo dedicato alle persone che non hanno un contratto di lavoro agganciato ad un fondo pensione, e dunque un fondo residuale per i silenti di queste categorie che non hanno fondi pensione. C'è un fondo che appunto depositato all'interno dell'IMSS che si occupa di restituire un rendimento garantito pari a quello del TFR. Ebbene, il numero è cresciuto molto proprio in assenza di una campagna di informazione, di comunicazione, di grande divulgazione, di grande massa, che potesse indirizzare al meglio queste persone verso le forme più indicate. Quella campagna è mancata già nel momento caldo, esatto, della riforma. C'è un deficit, tra virgolette, politico nella gestione del problema. Ci sono oltre 7 italiani su 10 che non hanno un fondo pensione, e queste persone, molti hanno, diciamo, alcuni sicuramente avranno una pensione di primo pilastro non da disprezzare, perché andranno in pensione secondo il sistema retributivo o con un sistema misto abbastanza garantito, vantaggioso. Chi invece avrà un sistema previdenziale misto, parliamo del primo pilastro, sia della pensione obbligatoria o contributivo, tutto contributivo, cioè avrà iniziato a lavorare dopo il 95, avrà molti più problemi, e queste persone vanno incontro da qui a qualche decennio a un rischio, mi verrebbe da dire rischio povertà, se non volessi accentuare troppo i toni, però effettivamente il problema è questo, perché quando un salario spesso non eccezionale si riduce del 50% o di più ancora a regime, ebbene è difficile non tirare fuori una parola come povertà. E dunque la previdenza complementare, che non è la panacea di tutti i mali, ma è un... diciamo che in tutto il mondo il sistema che meglio funziona per supportare una pensione di primo pilastro può dare un supporto importante anche in Italia. Serve che questo deficit politico di comunicazione, di volontà di realizzare questo supporto venga portato avanti prossimamente. Pensioni più leggere, tra l'altro ci dicevi, per chi va in pensione prossimamente col sistema misto o con il contributivo a partire da gennaio. Da gennaio, perché i coefficienti cominciano già a ridursi. Salva Danaio. La sigla di Salva Danaio con la strenna natalizia è fantastica. Marco, lo conti, ce l'avevi anche tu quando facevi Salva Danaio. Sì, anche all'epoca c'era già Natale. Ti porto i saluti di Joel da Monza, che dice: grande Marco, torna a Radio 24, torna per la pensione e per la previdenza complementare, sempre ad aiutarci, Marco. Allora, questo è il tema che affrontiamo stamattina, perché forse è momento di fare un check-up di fine anno per la propria situazione previdenziale, tenendo conto delle numerose anche novità in arrivo, come per esempio l'entrata in vigore vigore in gennaio dei nuovi coefficienti di trasformazione delle pensioni, in particolare di quelle che vengono calcolate con il sistema misto o interamente contributivo. Oltre a Marco Loconte, questa mattina con noi Nadia Vavassori, responsabile di Seconda Pensione, che è il fondo pensione aperto di CAM SGR Credit Agricole Asset Management. Eccoci agli ascoltatori pronti con le loro domande, le abbiamo invitati naturalmente a rivolgerci quanti più quesiti possibile. Se sono ancora tra gli indecisi del conferimento del proprio TFR alla previdenza complementare, magari hanno così deciso di accantonarlo, ancora di mantenerlo in azienda per qualche tempo in attesa di avere maggiore lucidità sulla scelta previdenziale corretta. Sandro da Lucca, benvenuto. Oh, buongiorno, salve. Buongiorno a lei. Il mio quesito, io ho 51 anni e diciamo Sandro, facciamo una cosa, ripeschiamo la sua telefonata perché la sentiamo strametallico e molto male, e ci piacerebbe invece sentire il suo quesito, quindi spostiamoci a Filippo da Milano. Filippo, benvenuto anche lei e buon Natale. Sì, buongiorno, buon Natale a tutti. Ci dica. Senta, io volevo porre una domanda. Io avevo aperto 15 anni fa più o meno un fondo pensione, posso dire il nome? Proviamoci, così almeno capiamo se è aperto. Europension Mediolanum. Sì. Praticamente con dei costi di caricamenti veramente spropositati, tant'è che dopo 15 anni di versamenti io perdo qualcosa come il 30% su quello che ho versato. E a questo punto, visto che comunque sia nei periodi buoni che nei periodi cattivi, diciamo, questo fondo non ha reso niente. Non è soddisfatto, insomma, della resa. Le posso chiedere intanto se si è fatto una chiacchierata con il suo consulente Filippo per chiedere ragione anche di questa performance? Ne avrò fatte tantissime, ma purtroppo questo fondo ha dei costi di caricamenti che sono, cioè, tipo, non so, il primo versamento i costi erano 80% di quello che avevo versato, e negli anni si pagano, perché ogni versamento paghi qualcosa come 4,5%, quindi se anche questo fondo facesse il 50% non recupererei mai quello che avevo versato. Allora, ammettendo di, come dire, che la sua situazione sia quella anche in cui si trovano altri lavoratori, qual è il punto, Filippo? Vorrebbe... Io comunque ho diritto anche al fondo di categoria, quello aziendale, quindi quello chiuso. Che lavoro fa Filippo? Lavoro nel commercio. Posso spostare tutta la posizione del fondo aperto sul fondo chiuso, sul fondo di categoria? Allora Filippo, da chi andiamo? Nadia Vavassori, la costringo a parlare di prodotti di casa altrui, anche se questo che citava l'ascoltatore, avendolo sottoscritto 15 anni fa, non era sottoscritto in un'ottica di riforma della previdenza, che è qualcosa di più recente. Proto-previdenza. Allora dovrebbe però fare, adesso le dico delle cose molto pratiche, non avendo sotto mano prospetti di questo prodotto e quant'altro, però una discrimine è tutti i prodotti, diciamo, riconosciuti come prodotti di previdenza nati e collocati dopo il 1 gennaio 2001. Sicché, siccome il suo dice ce l'ho da 15 anni, dovrebbe fare una verifica con la società istitutrice di questo fondo, di questa polizza poi alla fine, per verificare se è stata adeguata alla normativa entrata in vigore post 1 gennaio 2001 e di conseguenza verificare se questo è diventato a tutti gli effetti un PIP, prodotto individuale di previdenza. La norma ha stabilito che lei possa trasferire questo prodotto senza alcuna penalizzazione, anzi le società prodotto che avevano questi prodotti, che avevano venduto questa tipologia di prodotti, si sono anche rese disponibili a riconoscere quello che lei giustamente ha definito come caricamento, che finisce tecnicamente in un preconto della società istitutrice, che lo riconoscerà sulla sua posizione al momento del trasferimento. Sono forme, come dire, commerciali, adesso banalizzo molto, nate proprio per evitare che i sottoscrittori di questi prodotti si sgancino da questi prodotti in tempi, banalizziamo molto, però il deterrente per uscire stata dal fondo, una presa di prodotto. Coscienza di avere un po' esagerato con quindi costo. Il tema, l'ascoltatore dice, comunque a questo punto, una volta che abbia fatto questa verifica che gli stiamo suggerendo, qualora non fosse soddisfatto anche in questo caso della risposta, Marco, potrebbe trasferire lui la sua posizione in Enasarco? E Nasarco è un fondo di primo pilastro che ha anche una valenza di previdenza complementare. Essendo commerciante, bisogna capire se è commerciante oppure se è dipendente di una società che si occupa del commercio. Se è dipendente, può aderire a Fonte, per esempio, che è il fondo del settore commercio, così come sempre in quest'area opera Marco Polo o Filcop, ma anche se hanno dei numeri molto più bassi. Fonte è il secondo fondo pensione negoziale per numero di iscritti, perché la platea è estremamente ampia. Lui sicuramente può trasferire la sua posizione se dipendente ha anche la possibilità di, versando una piccola quota volontaria nel suo fondo pensione, usufruire di quello che è il contributo datoriale, che per Fonte è dell'1,55%. Il datore di lavoro versa l'1,55% del reddito lordo del dipendente nel fondo pensione in caso di adesione volontaria del dipendente. È un vantaggio notevole che non si ottiene in altre forme, soprattutto i PIP, per i fondi pensione aperti ad adesione individuale. Per i fondi pensione aperti ad adesione collettiva, invece, come mi ricorda sempre la dottoressa Bavassori, questo è possibile. No, io intanto sto controllando i messaggi che ci stanno arrivando e ci sta capitando questa mattina esattamente ciò che capita ogni volta che facciamo una trasmissione su questo argomento, e mi ricordo che tanti ce ne arrivavano quando abbiamo fatto anche la campagna informativa su questo tema, proprio nel pieno del semestre del silenzio assenso, quando tra il gennaio e il giugno del 2006 appunto i lavoratori erano chiamati a compiere questa scelta, e cioè state facendo lo spot promozionale ai fondi pensione, pessima informazione, e quindi dite le cose come stanno. Un ascoltatore dice: date voce anche al malcontento diffuso che c'è sull'irreversibilità della scelta nei fondi pensione, che nega il ritorno al TFR. E questo ascoltatore, Franco da Milano, ci dice: insomma, faccia per bene il suo lavoro di giornalista. Allora, questo è un tema di cui abbiamo parlato tantissime volte, di cui anche, come dire, il legislatore credo si sia interrogato se fosse il caso di compiere una scelta di questo tipo. Ma se si mantiene il TFR in azienda, si può dirottare il TFR in un fondo pensione? Al contrario, non si può fare. Ma allora, dalla parte che non è totalmente vero, esatto, Nadia Bavassori. Sì, allora, uno non è totalmente vero, poi la dottoressa Bavassori ci illustrerà le scorciatoie. Legalissime, assolutamente legali per cambiare, per tornare indietro. Per onor di cronaca, è vero che da anni si pensa, poi la previdenza è un grande cantiere, si pensa di introdurre questa revocabilità della scelta. Ciò detto, in ogni caso, io ricordo che se il problema è il rendimento, allora è possibile per gran parte dei fondi pensione aderire alle forme garantite. Le linee o comparti garantiti. Gran parte dei comparti garantiti dei fondi pensione aperti e negoziali in particolare, oltre che i PIP, offrono un rendimento pari a quello del TFR. Allora, se il problema è il rendimento, aderite a un fondo pensione che ha come benchmark di riferimento nella propria linea garantita il TFR, uguale al TFR. Avrete in più le agevolazioni fiscali. Per aderire al fondo pensione, il contributo del datore di lavoro, se il problema è il rendimento. Se poi vi stanno antipatici i fondi pensione perché si chiamano fondi pensione, non si chiamano Mario Rossi, il problema è che anche bisogna capire che del TFR non è che si può fare tutto quello che si vuole in ogni momento della propria vita. Nadia Bavassori, quindi è più utile, per le anticipazioni è più utile aderire al fondo pensione che al TFR. La percezione è che quello stia sempre lì accantonato in azienda, ogni qualvolta si bussi al datore di lavoro lo si possa prendere, comunque sia proprio come se quello versato invece nel fondo pensione non sia più qualcosa di nostro. Nadia Bavassori, questo è ancora il problema. Sì, direi che sarebbe interessante capire nella reversibilità della scelta, e quindi di fare un passo indietro piuttosto che tornare alle origini, esattamente qual è l'obiettivo che si vuole perseguire, perché pur prevedendo una reversibilità della scelta, cioè non alimento più la previdenza complementare con qualcosa che comunque è una posta virtuale, è mia, è una forma comunque di risparmio forzato verso la creazione di una rendita previdenziale complementare a quella che sarà la pensione di primo pilastro, di cui però io non dispongo nel corso della mia vita lavorativa, quando anche rimane in azienda. Quindi io faccio tornare indietro il TFR e lo faccio uscire dal circuito per entrare e tornare di nuovo in azienda, ma per poi farne cosa? Non è che perché torna in azienda per avere il gruzzo alla fine della disponibilità del percorso professionale, cosa che invece per il fondo pensione non è completamente possibile. E anche questo è appunto non è vero. Cioè, allora, la reversibilità della scelta, se di questo vogliamo parlare, esiste. Cambio datore di lavoro Se l'adesione è di tipo collettivo, vale a dire a un fondo pensione negoziale, a un fondo pensione aperto con accordo aziendale, una delle possibilità che mi è data come dipendente è di chiedere il riscatto della posizione. Riscatto totale al 100%. Con che tassazione? Con la tassazione ad aliquota del 23%, che in moltissimi casi è una tassazione migliorativa rispetto a quella che avrei in azienda dopo X anni di attività lavorativa. Quindi la mia scelta è reversibile. Io andrò in un nuovo posto di lavoro, il nuovo datore di lavoro mi richiederà che cosa voglio fare del mio TFR e lì potrò decidere alimentare nuovamente la previdenza complementare, non farlo e lasciarlo in azienda. E quindi insomma qualche volta passano dei messaggi un po' fuorvianti e noi siamo qui insomma per fare un po' di chiarezza. Solo chiarezza, nessuno spot. Esatto, ci mancherebbe altro veramente. Anzi, se posso dire, chi ci perde di più nella previdenza complementare alla fine, diciamo che sono le aziende. Sarebbe come dire, agevole dire povere aziende che non hanno la possibilità di tenere in cassa il TFR dei propri dipendenti. Esatto. Usarlo come fonte di finanziamento come hanno sempre fatto. Esatto, invece in quest'anno di stretta del credito è venuto a mancare anche quella risorsa, per cui ragioniamo anche su questo se possibile. Salva Danaio. La previdenza complementare questa mattina a Salva Danaio per tentare di fare con voi un bilancio, una riflessione di fine anno. Peraltro avrei voluto anche toccare il tema del life cycle, che in inglese sembra molto complicato ma in realtà è un meccanismo di adeguamento automatico del rischio del fondo pensione che si sceglie. Di cosa si tratta? Marco Lo Conte ne ha scritto anche ieri sulle Sole 24 Ore in un pezzo intitolato Previdenza con il pilota automatico. Poi l'ABC di questo lo facciamo. E intanto Sandro da Lucca, eccoci a lei. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, sì. Auguri. Ascolti, io volevo porre un quesito. Mi sente adesso? Benissimo. Ascolti, io ho 51 anni e considerando che sono sempre un TFR, perché non avevo capito bene poi questo problema qui del complementare o meno, problemi che ci sono nelle varie categorie, io volevo fare questa domanda. Mi dovrebbero mancare, diciamo che io andrò in pensione a 65 anni, no? Ci avrò sempre 14 anni di lavoro, diciamo. Mi conviene gli ultimi 14 anni farli in un fondo o rimanere in azienda? È quello il mio problema. Ha capito? 14 anni è un sì, sì, certo. È una, come dire, una considerazione assolutamente pertinente, Sandro, e sicuramente se la faranno in molti. Io credo indubbiamente di sì. È un periodo discreto. Nadia Vavassori, gli facciamo così un piccolo check-up al nostro ascoltatore, se venisse da lei un potenziale aderente al suo secondo pensione, insomma, e avesse una situazione anagrafica analoga. Ma le considerazioni che farei sono duplici. La prima è che sicuramente lei andrà in pensione con il sistema retributivo del primo pilastro, pertanto tutto sommato avrà una pensione di primo pilastro non così penalizzata insomma dal sistema contributivo. È vero che 14 anni di adesione alla previdenza complementare, che sia un fondo aperto o un negoziale indifferente, presuppone che a seconda del contratto collettivo che lei applica, che le viene applicato, possa prendersi anche un contributo da parte del datore di lavoro, che comunque è sempre, scusatemi il termine, ma grasso che cola, che altrimenti non prenderebbe sotto altra forma, per cui è sempre sostanzialmente un aumento di retribuzione. Stavo intanto cercando di fare un calcolo per capire come mai con così tanta convinzione mi ha detto che lui andrà in pensione con il retributivo. Nel 95 aveva già 18 anni diversamente. Nel 96 erano 16. Ecco, quindi avete fatto il calcolo, ma che bravi. Da quando ho iniziato a lavorare. Sì, no, non sono stata, si vede che state esatto, lì tutto il giorno. Facciamo solo quello. E quindi insomma comunque vale la pena. Ma insomma 14 anni per farsi, sì, cioè 14 anni di percentuale di contributo aziendale. Preciso che poi alla fine ci sono due opzioni, a volte sono opzioni, a volte sono un po' vincolate. Chi aderisce è alla fine del periodo, quando va in pensione, si trova con un gruzzolo, con un montante in un fondo pensione eccessivamente basso, vi risparmio il meccanismo di calcolo un po' articolato, può non essere obbligato ad avere una pensione integrativa, a una pensione complementare o di scorta, che dir si voglia, ma può riscattare il capitale. Questo consente di utilizzare anche negli ultimi anni di vita lavorativa il fondo pensione non mi ascoltino i gestori dei fondi comuni, ma al posto dei fondi comuni, perché alla fine è uno strumento di risparmio che ci consente di riscattare tutto in forma di capitale senza essere obbligati, tra virgolette, ad avere almeno la metà in forma di rendita. Per cui questa è un'opportunità in più che è da considerare. Allora, Roberto da Milano, buongiorno anche Roberto, una domanda interessante e gli faccio fare il portavoce di tanti altri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 con delle domande simili, analoghe. Roberto? Buongiorno. Buongiorno. Io riprendo le sue ultime parole di poco fa, chiarezza e semplicità. Io la domanda di fondo che mi pongo è: ho 50 anni, ho iniziato a lavorare nell'83, quasi sempre in un contratto commercio, e ho usato quelli che una volta erano i 2,5 milioni di accantonamento, eccetera, e dal 96 ho messo il fondo pensione, ho acceso il contratto con il fondo pensione, dove l'azienda ci mette anche la sua quota parte. Ma la sintesi, very basic, ma con quanto andrò in pensione io del mio attuale stipendio lordo? Ci proviamo. Allora, Roberto, no, tra l'altro, sì, se ce la facciamo, sì, no, abbiamo 5 minuti di tempo. Il tema è, come dire, il tema che lega anche molti degli scettici della previdenza complementare, cioè vorrebbero sapere fin da ora, sulla base di quanti versamenti fanno, quanto prenderanno al momento della pensione. No, allora ci sono dei. Sì, se vuoi, sì, vuoi dire. Nadia Vavassori mi dice primo pilastro. Cosa no, vuol penso dire? Che la domanda del radioascoltatore fosse relativo al primo pilastro, perché ha detto sì, certo. Quanto della sua retribuzione si trasformerà poi in rendita di primo pilastro. E poi c'è il secondo pilastro, ovvero la previdenza complementare. Beh, quanto di questo gap? Sì, sì, certo, non era, dici, insomma, legato sostanzialmente al versamento nella previdenza complementare. Partiamo dal presupposto che non c'è certezza della legge, chissà quante riforme potranno anche arrivare prossimamente. Sì, però ecco, allora diciamo che secondo le promesse dell'esecutivo a inizio 2010 sarà recapitata, ora si tratta di capire se a tutti gli italiani, a tutti i lavoratori italiani oppure a un gruppo, si spera non troppo ristretto, la famosa busta arancione. Sì. In Svezia la busta arancione è quella che percepiscono tutti i lavoratori, ai quali viene detto quanto prenderanno di pensione rispetto a quello che stanno facendo, per cui il trentenne quindi che comincerà ad arrivare anni, la comunicazione, esatto, periodica rispetto, esatto, a questa informazione che tutti sono tanto ossessionati di conoscere. Esatto, giustamente, ma giustamente, certo, si tratta di capire come sarà fatta questa busta arancione. Noi siamo sul pezzo per cercare di monitorare i lavori che si stanno producendo per cercare di dare una definizione attendibile, perché poi sarà certificata dal pubblico. Ora probabilmente lo farà il Ministero del Welfare, a quanto ho capito, credo il nucleo di valutazione sulla spesa pensionistica, a quanto sembra, ma insomma i lavori sono in corso per dare questa indicazione. Già oggi su molti siti internet, compreso quello del Sole 24 Ore, ma insomma su tutti i siti di tutti i fondi pensione, è possibile ottenere questo calcolo, che evidentemente non è certificato dall'autorità, dall'esecutivo, piuttosto che dall'autorità di vigilanza, ma è molto attendibile. Sono 3 o 4 società che producono questi motori di calcolo e che dicono sostanzialmente, noi l'abbiamo riproposti tante volte sulle nostre pagine, che un 52enne, per esempio, dipendente, va in pensione con una cifra oscillante tra il 65 e il 73% dell'ultimo stipendio, a seconda che vada in pensione alla prima finestra o all'ultima. Mm-hmm. Tenendo conto che adesso i coefficienti di trasformazione si modificano ogni 3 anni. Sì, questo ti tengono già conto. Nel nostro speciale del 24 ottobre già tenevamo conto della revisione triennale. E dunque riusciamo utilizzando un foglio Excel ad avere una prospettica abbastanza puntuale del fatto che sostanzialmente oggi chi è nel retributivo è pensione con l'80% l'ultimo stipendio, si andrà al 75% e poi si scenderà fino alla metà. Certo, allora io ho 2 minuti di tempo, però se il tema è sapere quanto avrò rispetto ai versamenti che io faccio adesso, quindi andando al terzo pilastro, Nadia Vavassori, per esempio, quali sono gli obblighi di un fondo pensione aperto, perché le faccio parlare ovviamente per quello che è lo strumento di sua competenza di comunicazione all'aderente, se questo è il punto che ancora rende, come dire, molti possibili sottoscrittori lontani dalla previdenza complementare. Ma è dall'anno scorso che sostanzialmente i fondi pensione aperti ai negoziali devono mandare, insieme alla certificazione periodica, che è la famosa facsimile di busta arancione per la previdenza di primo pilastro, direi che i fondi pensione aperti ai negoziali, secondo e terzo pilastro, la busta arancione la mandano da quando sono nati, perché c'è questo obbligo, per cui entro il 31 marzo di ogni anno prodotti di previdenza complementare devono mandare la certificazione periodica all'iscritto relativa all'anno solare precedente con il dettaglio di tutti i contributi, e dall'anno scorso anche un progetto esemplificativo che sulla base personalizzato, che sulla base di questi contributi proietta, sulla base di un rendimento ipotetico uguale per tutti e imposto dalla COVIP, proietta la posizione per fino al pensionamento, e di questa fa vedere quanto sarà il montante accumulato e la possibile rendita, certo con alcuni, come dire, cautele, perché la rendita è fatta sui coefficienti di conversione dei prodotti di rendita vitalizia oggi, che non saranno certo gli stessi tra 20 anni, perché fortunatamente la vita media si allunga e di conseguenza tutto il sistema previdenziale deve adeguarsi anche alle questioni anagrafiche, che insomma poi è tutto, questo è proprio alla base di tutto il discorso che facciamo da 4 certo, anni. Certo, sui discorsi di cui si parla e si analizzano in tutti i dettagli, forse è meno noto che il vero problema è il primo pilastro, perché l'INPS è in deficit strutturale, lo Stato dà all'INPS ogni anno qualcosa tipo 70-80 e quindi dobbiamo fare miliardi da noi, perché lo Stato a noi non ci penserà più. Grazie a Nadia Vavassori e Marco Loconte per essere stati con noi. Di tanti punti che dovevamo parlare, come al solito non riusciamo a far niente, ma vi rimetto insieme fra qualche settimana naturalmente. Noi intanto di Salvadanaio torniamo domani, vi auguro una buona giornata.